109 miliardi, la metà vanno via per pagare quelli della task force. Oggi parte la lotteria dallo scontrino lì, quella roba lì, ma è l'ennesima prova che proprio non ci siamo. È un aiuto praticamente a chi può, deve fare 10 acquisti e più spende, ma dai, siamo sempre più poveri e mica tutti si possono permettere di spendere tanto. Piove sul bagnato, dai. Non so se piove sul bagnato. Comunque sì, è vero, oggi parte la lotteria degli scontrini. Non male l'idea dei 209 miliardi da destinare esclusivamente agli stipendi della nuova task force in arrivo. 300 persone, forse saranno ridotte, chissà. Eccoci di nuovo, care ascoltatrici, cari ascoltatori. Martedì 1 dicembre, sono le 7:20 minuti e 17 secondi. E questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Al microfono, sempre Simone Spezia. Parleremo di tutto questo anche nella rassegna. Soprattutto della task force, e poi ci occuperemo anche di patrimoniale, ma come sempre diamo prima di tutto un'occhiata alle aperture dei giornali. Il Quotidiano Nazionale e Il Giornale fanno la stessa scelta: l'Europa non vuole le messe di Natale, titola il Quotidiano Nazionale. L'Europa vieta la messa, dice Il Giornale. In realtà non è che la vieta proprio, c'è un consiglio che arriva da parte di Bruxelles di bloccare le cerimonie religiose che possono essere a rischio di assembramento. Il Corriere della Sera ci fa sapere invece che verranno chiusi gli alberghi di montagna, e questo ve la dico così, senza offesa per le colleghe Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini che firmano il pezzo di apertura su questo e che spesso ci hanno azzeccato. In questi giorni ne abbiamo viste molte, quindi suggerirei a tutti quanti di aspettare il DPCM, il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per sapere esattamente quali saranno le regole. Anche il Fatto Quotidiano ci dice che l'Europa è contro le messe, dice vietare quelle di Natale. La Repubblica fa una scelta diversa, apre innanzitutto su Regeni e sul fatto, sul caso Regeni, perché ci sarà un doppio processo, uno a Roma e l'altro al Cairo, con le proteste della famiglia del ricercatore ucciso in Egitto. E l'altro titolo, il titolo forte di prima pagina, è dedicato ai 5 milioni di nuovi poveri con la pandemia che inasprisce la crisi. La Stampa e Il Sole 24 Ore aprono su quello che è successo ieri in Unicredit, l'avete sentito anche in GR24, la bufera al vertice, come la definisce La Stampa, via Mustier che paga il no a Monte dei Paschi. Il Sole 24 Ore ci parla di un cambio di rotta per Unicredit, con Mustier che va fuori entro l'aprile 2021. Scenderemo un po' nel dettaglio anche su questa vicenda, perché è interessante sotto molti aspetti, anche se volete dal punto di vista politico, perché quando si parla di Monte dei Paschi si parla anche del punto di vista politico, oltre che dei soldi dello Stato che sono andati a salvare la banca di Siena. Sanatoria al posto dei ristori è il titolo del Messaggero, sul fatto che c'è un piano per cancellare le imposte 2021 per chi ha subito perdite per la pandemia. E vanno in parallelo La Verità e Libero, dove La Verità titola: ci ordinano di fare shopping e poi insultano chi obbedisce. È Libero: il governo apre i negozi, poi si secca se ci andiamo. Tecnici e politici scandalizzati perché nelle città diventate arancioni la gente è uscita per fare la spesa. Il Manifesto, il titolo di apertura è: messa a fuoco. Il governo dà il via libera alla riforma del meccanismo europeo di stabilità, ma le tensioni interne alla maggioranza su questo fronte sono forti. E Avvenire apre sulle cure possibili. I ricercatori italiani: anticorpi monoclonali pronti a marzo. Moderna chiede l'autorizzazione per il vaccino. L'Europa dice: si evitino assembramenti alle messe. Iniziamo come sempre da qualcosa di un po' diverso, e questo qualcosa di un po' diverso è questa cronaca che avete sentito anche in GR24 e che dobbiamo capire, si apre lo spaccato su qualcos'altro. Un po' di giornali tendono a trovarlo, questo spaccato del mondo della droga che tocca anche i giovanissimi. È un argomento, se volete, ormai... ormai è entrato nel discorso pubblico, se ne parla da molto tempo, ma quello che è avvenuto ieri, il fatto di cronaca, è un segnale doloroso insieme inquietante dall'altra parte. Il pezzo sul Corriere della Sera sulla vicenda di quest'uomo assassinato con 20 coltellate vicino alle case Aller del quartiere San Rocco a Monza è firmato da Federico Berni e Cesare Giuzzi, un testimone ha raccontato di aver visto per due volte quei ragazzi, poco più che bambini, bloccare la vittima mentre tentava di scappare, trascinarla sotto al portico per colpirla di nuovo, 20 coltellate, due alla gola, che hanno ucciso Cristian Sebastiano ai suoi 42 anni alle case Jescal di San Rocco, tra botte di cocaina, comunità di recupero, infinite ricadute. Gli assassini, a questo punto si può dire perché sono rei confessi, hanno 14 e 15 anni e come la vittima sono figli di questa brianza che Berni e Giuzzi definiscono mangiata dalla droga, delle sue case popolari, dei giorni trascorsi al parchetto tra canne e video gangsta su Instagram, di quell'ordinaria sofferenza, per usare le parole del procuratore dei minori Ciro Cascone, che ha incredibilmente unito le vite di vittima, assassini e delle loro famiglie. Sebastiano, o Cristian Sebastiano, l'uomo ucciso da queste coltellate, era diventato il tormento del ragazzo di 14 anni che poi lo ha ucciso. I due si incontravano fuori dal CERT. L'amico del 14enne, il 15enne, ha raccontato lo odiava perché era stato lui a portarlo a drogarsi, ora lo tormentava. Quando la vittima si trova davanti il coltello, urla il nome del 14enne ed è questo, racconteranno i ragazzi, a far sfociare un tentativo di rapina in un omicidio. E questo è il racconto dal quale qualche giornale, appunto, come dicevo, trae delle conclusioni più ampie sul fenomeno dell'utilizzo della droga tra i ragazzini, e ad appoggiare tutto questo c'è la storia, il racconto di una ragazza di 16 anni che è in coma a Milano per un mix di alcol e droga. La questione pandemia vorrei dedicarla in questa parte qua al racconto che è arrivato ieri da Report e che trova ampio spazio oggi sui quotidiani e riguarda il direttore aggiunto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ranieri Guerra, uno dei volti che abbiamo imparato a conoscere nel corso di questa pandemia. Ed è il suo ruolo, quello che viene messo sotto accusa, è il suo ruolo nel tentativo di occultare un rapporto dell'OMS nel quale si raccontava che l'Italia aveva avuto una reazione improvvisata, caotica e creativa sul nuovo coronavirus. Scrive Alessandro Mantovani sul Fatto Quotidiano che si fa un po' scomoda la posizione di Ranieri Guerra. Il tema, appunto, è sempre il piano italiano contro l'influenza pandemica, che non sarebbe mai stato aggiornato dal 2006. E appunto c'è anche questo rapporto dell'OMS. In questo rapporto si legge che il piano del 2006 era stato solo riconfermato nel 2017. Devi correggere subito, scriveva Guerra a Francesco Zambon, coordinatore dei ricercatori dell'OMS, autori del dossier. Era l'11 maggio, poco prima della pubblicazione. Non andava bene la data, il 2006 appunto. Bisognava aggiungere ultimo aggiornamento dicembre 2016. Non fatemi casino su questo, scriveva ancora Guerra. Stasera andiamo sui denti di Report e non possiamo essere suicidi. Adesso blocco tutto, così non può uscire. Evitate cazzate. Grazie e scusa il tono, Ranieri. Il testo non cambierà e sarà ritirato subito. Questo è il racconto che arriva da Report, che viene riportato dal Fatto Quotidiano. Intanto apprendiamo dal Messaggero a pagina 7 che l'OMS ha deciso di invocare l'immunità diplomatica. Perché? Perché tutta questa vicenda nasce in realtà dalle denunce che sono arrivate dall'associazione che ha deciso di fare una battaglia legale per i morti a Bergamo. Ebbene, c'è l'inchiesta aperta dalla Procura di Bergamo, e ci racconta il Messaggero con Francesco Gentile e Francesco Malfettano che immunità diplomatica, che questo è l'Istituto di diritto internazionale che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha opposto ai PM della Procura di Bergamo, che volevano interrogare alcuni ricercatori come testimoni nell'indagine sui morti della prima ondata. Dalla sede europea di Copenaghen, come ha rivelato lo stesso report, è infatti arrivata una nota ai magistrati e ai ministri degli esteri Di Maio e della Salute e Speranza, in cui si rivendica lo speciale status dei propri dipendenti. Questa è la situazione dell'OMS che prelude a ulteriori scossoni, mi par di capire. Una pausa. Non è serio fare annunci di queste portate patrimoniali e roba varia. La gente è già depressa, la gente è già scoraggiata, impaurita per questa pandemia, e i parlamentari si permettono di fare queste affermazioni di veramente gravi, perché poi tra l'altro la gente può o portare via i capitali all'estero oppure, nella peggiore delle ipotesi, impaurirsi e stare male. Simone, buongiorno. Ma qualcuno si sta scandalizzando del fatto di inserire una tassa di un patrimonio immobiliare di 500.000 euro dello 0,2%, cioè di 1.000 euro, chi ha un patrimonio di 500.000 euro libero da mutui? Ma via, forza Cacciari tutta la vita! Forza Cacciari tutta la vita! Ciao Simone, non è tanto il problema della patrimoniale. È che io so per certo che quei soldi poi finiscono mangiati da qualcuno. Taglino tutti gli sprechi prima, mi facciano vedere che cacciano gli evasori prima, e poi sarò felice di darne anche il doppio. L'ascoltatore che l'ha evocato, Cacciari, che l'abbiamo fatto sentire prima, eccolo, eccolo. In una situazione come questa, chi può dare di più deve dare di più. Ne parliamo poi alle 8.35 di Patrimoniale. Se volete continuare a mandare i vostri messaggi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp, e poi a partire dalle 8 anche l'800-2400-24 se vorrete intervenire in diretta e dite la vostra. Vi aggiungo anche la pagina Facebook di 24 Mattino. Andate là, oltre a trovarci naturalmente la nostra diretta video, ci trovate anche degli aggiornamenti. Apriamo anche il dibattito su questi temi, e l'abbiamo fatto già da ieri sera, già c'è qualche vostro commento. A proposito di commenti, ve ne porto due su questo tema. Uno un po' più politico, che è quello di Antonio Padellaro sul Fatto Quotidiano, e uno un po' più tecnico, ma anche politico, di Luciano Capone sul Foglio. Allora, Antonio Padellaro, il titolo del pezzo dice forse già tutto. Patrimoniale. Il cazzeggio di Orfini and Company. Questo è il titolo del pezzo di Padellaro, il quale dice che si tratta di una proposta destinata all'oblio, perché dargli spago significherebbe per il governo suicidarsi. Aspetto che sicuramente non sfugge a politici navigati come Orfini e Fratoianni, talché esiste il fondato motivo che la loro sia più che altro una provocazione per riconquistare i titoli dei giornali dopo lunga astinenza. E poi ci mette dentro Padellaro quelle che sono state tutte le reazioni. Dice che si tratta di un'autentica leccornia servita su un piatto d'argento a quella destra con il sangue agli occhi e la bava alla bocca, che difatti reagisce da par suo. Racconta della reazione anche del mondo liberale e poi chiude. Chi non ha molta pratica di sinistra, PD e LeU, capita. Chi non si abbevera al cazzeggio retroscenista dei giornali, capita, chiede lumi presso le banche di riferimento, non senza qualche apprensione per il conto corrente. Nessuno ne sa niente e tutti cadono dal pero. Insomma, molto rumore per nulla, ma quello almeno era Shakespeare e non Orfini e Fratoianni. Così Padellaro, mentre invece Luciano Capone ci porta su quelle che sono state innanzitutto quelle che sono le due ipotesi in campo, o meglio ipotesi, non sono ipotesi, ricordiamolo, sono emendamenti alla manovra che molto difficilmente verranno approvati, però sono là. C'è quello appunto di Fratoianni e Orfini da una parte, che prevede un'aliquota progressiva che va dallo 0,2% a partire da 500.000 euro di patrimonio allo 0,5% sopra il milione, fino al 2% sopra i 50 milioni, E poi ce n'è un altro presentato dal sottoscritto da Pierluigi da Pierluigi Bersani, che ha un'altra previsione. Cosa fa Luciano Capone? Mette a confronto tutto questo innanzitutto coi numeri. Dice che da quest'ipotesi, dall'ipotesi Fratoianni Orfini, si ipotizza un'entrata per le casse dello Stato da 18 miliardi l'anno, con la cancellazione dell'IMU seconda casa, la quale cuba 20 miliardi. Vuol dire che la nuova patrimoniale dovrebbe raccogliere quasi 40 miliardi di euro. Sembra una cifra un po' spropositata, come ha evidenziato il presidente della Commissione Finanze, Luigi Marattin. Basta prendere proprio la patrimoniale spagnola, alla quale dicono di ispirarsi, per fare un confronto. Il governo socialista di Pedro Sánchez ha alzato l'aliquota dell'1% per i patrimoni sopra i 10 milioni di euro. Il gettito stimato dal governo spagnolo nella sua legge di bilancio per il 2021 è di massimo 339 milioni di euro. Conclude Capone, ci saranno poche possibilità che questo emendamento passi. La cosa da un lato conforta, perché vuol dire che al momento non c'è nulla di serio nella proposta di aumentare le tasse in un paese che ha già la pressione fiscale tra le più alte al mondo e la tassazione sui patrimoni nella media OCSE. Dall'altro sconforta, perché in un momento di crisi e incertezza come questo, le minacce di ulteriori e pesanti patrimoniali non servono ad altro che a far rallentare gli investimenti, aumentare il risparmio precauzionale e fuggire i capitali. Così Capone sul Foglio. Vi ripeto, ne parleremo poi alle 8.35. Virologi. Virologi ovunque, infettivologi ovunque. Oggi se ne occupa il Quotidiano Nazionale, con riportando una ricerca a pagina 4 e facendo commentare la ricerca ad un pregiato editorialista, Alessandro Milan. Però il pezzo di Giovanni Panettiere ci racconta questo, ci racconta che Reputation Science ha valutato gli esperti Covid con tre parametri: presenza sui media, coerenza delle dichiarazioni, allerta provocata. Crisanti è il più visibile, Bassetti il meno allarmista. E beh, questo lo sapevamo. Però è interessante, guardate, anche questa storia dell'indice di coerenza. Indice di coerenza che va da 0 a 10, dove su 10 c'è il massimo della coerenza e su 0 c'è il minimo. Chi sono stati più coerenti in questo periodo di pandemia? Che hanno mantenuto il messaggio più o meno sempre sullo stesso livello? Fabrizio Pregliasco è il numero uno, con un 9,67 di punteggio. Crisanti è tra i peggiori, con un 3 di punteggio. Ilaria Capua, 4. Giorgio Palù, 3. Maria Rita Gismondo, la peggiore in assoluto, un indice di coerenza di 0,75 su 10, un voto bassissimo. Siamo sul 7,5 per Massimo Galli, sul 9,11 per Franco Locatelli, sul 4,21 di coerenza per Roberto Burioni. Tutto questo lo trovate sul Quotidiano Nazionale, come vi dicevo, anche con l'editoriale, il commento di prima pagina di Alessandro Milan. Lo shopping, mamma mia. Se ne è discusso fin troppo, però le paginate sui giornali le trovate comunque. Ad esempio La Stampa, pagina 9, ci parla della stretta contro lo shopping selvaggio. Chi non risiede nel comune verrà multato. In realtà questa, che sembra una grande innovazione normativa, non lo è, perché teoricamente, essendo una zona arancione, il Piemonte e le persone che sono fuori dal comune non possono venire, non possono andare a Torino se non per qualche giustificato motivo. Però semplicemente, evidentemente, l'intenzione è di rafforzare i controlli. Ne scrive Irene Famà, appunto a pagina 9 della Stampa. Si parla di pattuglie in strada e controlli sui treni, il prefetto che alza la guardia dopo gli assembramenti di domenica, e ricorda il prefetto, dice, il passaggio da zona rossa a zona arancione non significa il superamento del divieto di mobilità. A Milano arriva un appello a Beppe Sala per mettere a numero chiuso alcune strade. A Genova, folla in centro, ma un assalto ordinato. A Roma partono le multe per la cosiddetta movida, ammesso che ci sia, e le vie del lusso verranno sorvegliate, così ci racconta La Stampa in questa paginata. E poi c'è la scuola, la questione della scuola. Come avete sentito ieri, la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa ha detto, ospite da noi, che non crede che ci saranno aperture prima di Natale. La scuola aperta a spot serve solo a creare vampate di contagi, lo scrive, riporta queste frasi a pagina 11 il quotidiano La Repubblica. Quotidiano La Repubblica ci racconta anche una storia e che, secondo me, guardate, vale la pena prenderla per darvi uno spunto di quello che succede nelle famiglie più in difficoltà. È un pezzo di Claudia Brunetto, vi cito solamente il titolo perché vi dà un po' la misura. Andrea da 8 mesi non va in classe, mio figlio ha perso il sorriso. La storia arriva da Palermo, è la storia di un ragazzo autistico, la DAD non è per lui, ha bisogno di ritornare a studiare con gli amici, l'istituto non dà risposte, non gli ha dato la possibilità di seguire le lezioni dal vivo con un piccolo gruppo di compagni e professori, nonostante l'ultimo decreto per chi ha disabilità lo preveda. E non è la sola scuola che si comporta in questo modo, il traffico. Mattino. Hanno fatto il bonus vacanza per mandarci in vacanza, poi si sono lamentati che siamo andati in vacanza. Sia. Il ristoro bis doveva arrivare entro ieri, ma non si è visto. Speriamo per il ristoro quater, caro ascoltatore. Caro ascoltatore. No, sappiamo che su questo fronte ci sono un po' di ritardi. Se il ritardo si dovesse protrarre oltre il giorno, che forse un giorno possiamo considerare fisiologico, ci scriva. 24 mattino che ho sulla radio 24.it, l'altro punto di contatto. Vi do uno spunto che è un elemento importante, perché è una questione che intreccia la politica, l'economia e il sistema bancario. Non è un caso se il Sole 24 Ore di oggi apre sulle dimissioni annunciate per aprile dall'amministratore delegato di Unicredit, Jean-Pierre Mustier, che è amministratore delegato dall'estate del 2016, il quale ha informato il Consiglio di Amministrazione che si ritirerà dal suo ruolo alla fine del mandato in corso, che scade nell'aprile 2021 insieme a quello dell'intero Consiglio. A questo punto si ragiona sulla futura composizione del Consiglio di Amministrazione, con la scelta di Piercarlo Padoan, come ben sapete, ex ministro dell'Economia, come presidente designato. Come potrete ben intuire e come i giornali evidenziano, al centro di tutta la questione c'è la vicenda di Monte dei Paschi e l'ipotesi che Unicredit acquisisca Monte dei Paschi. L'istituto è da settimane, ci racconta Luca Davi a pagina 18, è da settimane in trattative con il Ministero dell'Economia e le Finanze per la possibile acquisizione di Siena, deal per fare il quale la banca avrebbe imposto la neutralità degli impatti patrimoniali. La spiego semplice. Mi prendo Monte dei Paschi e però mi devi assicurare che questa cosa non abbia un impatto sul mio patrimonio, non mi rovini i conti della banca, per intenderci. Sul tema il governo ha fatto importanti passi avanti, arrivando a mettere sul tavolo, e vedete che arriviamo alla questione dei soldi pubblici, una ricapitalizzazione da 2 miliardi e mezzo, a cui si abbinerebbe la conversione delle DTA in crediti fiscali, misura che porterebbe a oltre 5 miliardi la dote complessiva per Gaia Aulenti. Nel frattempo, tuttavia, è emersa l'opposizione dei 5 Stelle, che presentando un emendamento ad hoc puntano a limitare il beneficio fiscale a soli circa 500 milioni contro i 2 attesi, ridimensionando la convenienza dell'operazione. Nell'incertezza dei termini del possibile accordo, ieri il titolo Unicredit ha perso il 5%, si vedrà oggi quale sarà la reazione del mercato. E visto che siamo sul tema dei soldi pubblici, restiamo sul Sole 24 Ore, E andiamo a pagina 12, la pagina di economia e imprese, nella quale in un pezzo firmato da Paolo Bricco e Domenico Palmiotti apprendiamo che c'è l'accordo sull'ex Ilva con appunto l'entrata dello Stato. Ieri si è messa la firma in calcio al memorandum of understanding, 5 pagine in doppia versione, italiana e inglese, che le parti si sono scambiate, hanno siglato alle 6 di sera. Invitalia sottoscriverà una guidata da Domenico Arcuri, ricordiamo. Sottoscriverà un aumento di capitale di Aminvestco da 400 milioni di euro, probabilmente a febbraio. In un secondo tempo, entro il 2022, ci sarà un secondo aumento di capitale da 800 milioni che dovrebbe essere per il 90% in capo a Invitalia. In sostanza, appunto, lo Stato entra e poi dovrebbe diventare a un certo punto azionista di maggioranza. Sono previsti 2 miliardi di investimenti per l'ex Ilva. Il pezzo di Bricco e Palmiotti, appoggiato da un punto di Carmine Fotina, che vi suggerisco perché è molto interessante, è complesso e quindi qua negli spazi ristretti della rassegna stampa non abbiamo tempo per darmene conto esattamente, però prendetevi il Sole 24 Ore, pagina 12, un Carmine Fotina, un labirinto di fondi per lo Stato imprenditore, racconta un po' come si sia concretizzata una strategia appunto di Stato presente nelle aziende progressivamente e attraverso una sorta di babele di fondi diversi tra i soldi messi da Invitalia, tra quelli inseriti nei vari decreti e nel decreto rilancio e via dicendo. È uno spunto interessante per vedere come si sta concretizzando e come si sta operando questa strategia. Abbiamo parlato di patrimoniale. Io devo dirvi, è vero che Francesco, che Bergoglio questa cosa l'aveva già messa sul piatto, e però a occuparsene un po' più approfonditamente, a farci il titolo, ci pensa solamente il quotidiano nazionale. E la cosa è questa: il Papa mette in dubbio la proprietà privata. E ieri lo ha fatto nitidamente, con delle parole molto dure e molto chiare, ed è colpisce discretamente, direi. Nina Fabrizio, da Città del Vaticano, che riporta queste parole di Francesco. Occorre costruire una nuova giustizia sociale partendo dal presupposto che la tradizione cristiana non ha mai riconosciuto come assoluto e intoccabile il diritto alla proprietà privata e ne ha sempre invece sottolineato la funzione sociale. Dice Nina Fabrizio, che sono destinata a far discutere queste parole di Papa Francesco in un videomessaggio in occasione della conferenza internazionale dei giudici membri dei comitati per i diritti sociali di America e Africa, diffuso ieri dalla sala stampa vaticana. Il diritto di proprietà è un diritto naturale secondario, derivato dal diritto che hanno tutti, nato dal destino universale dei beni creati. Così Francesco, dice Nina Fabrizio, fa discutere. Mi aspettavo anch'io ieri, quando ho visto queste parole di Francesco, che avrebbero fatto discutere, invece ne troviamo, devo dire la verità, poca traccia sui giornali. Cosa ancora da segnalarvi? Direi forse sul fronte politico, guardate, al di là della patrimoniale, francamente c'è molto poco, se non quella che il giornale con Laura Cesaretti definisce come la rivolta contro i 300 di Conte, cioè questa famosa task force che dovrebbe essere creata per gestire i fondi del recovery, e generano, manco a dirlo, forti tensioni all'interno della maggioranza su questo team monster, 300 persone, i 3 ministri, i 6 manager sotto e a scendere appunto 50 tecnici, 50 persone per ogni manager, per ogni dossier, per spendere i soldi di Next Generation EU. Poco altro per ora, ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo tra poco con Paolo Mieli e, come vi dicevo, parleremo poi alle 8.35 di patrimoniale. Ditemi la vostra, dite come la pensate, 800 24 0024 se volete intervenire in diretta. A tra poco.